senti, Frigo, mi senti? Dimmi, Frigo. Frigo, sto dormendo. Non sto più nella pelle, Frigo. È quasi Natale. E allora? E allora, Frigo, hai mai pensato ad avere un bell'albero, un abete di Natale? Rogna, qui al massimo ci sta un disegno di un bonsai. E allora, non pensi che sia carino anche solo un disegno di bonsai natalizio? E cosa te ne fai? Crea atmosfera, Frigo. Io lo sapevo, avrei dovuto chiedere una gabbia singola. E poi sotto ci si mettono i regali. Ma quali regali? Beh, fai finta, no? E per esempio, sempre per far finta, cosa vorresti come regalo di Natale? Ma sei scemo? Perché adesso non mi chiedi anche di giocare a ce l'hai? Beh, io in effetti ci stavo pensando, ci ho anche pensato. Sai, gli umani, che è un po' l'invidio, quei maledetti si fanno un sacco di regali. Come quei dannati criceti. Ah, sì, ecco, io vorrei un occhio bionico per vedere meglio la topa qui vicino quando si sdraia pancia in su. Io allora vorrei un altro compagno di gabbia. Ma dai! Allora vorrei dei guantoni da box. Per far che? Per godere meglio del secondo regalo che vorrei. Quale? Un criceto. Frigo, sei troppo avanti. Svegliamo le carte della testa attitudinale di quest'oggi, che si occupava del celebre album Two Virgin della coppia John and Yoko. Perché fece scalpore? Forse come ipotizzato dalla soluzione A, perché i due erano completamente nudi in copertina, abbracciati l'uno all'altra. Dispiace giocarsi così. La risposta valida al primo botto. Ma è così. Segnaliamo che i due artisti accettarono di pubblicare l'album con un involucro di carta marrone che coprisse le loro nudità. Segnaliamo anche che nel calendario di Pane, Burro e Rock and Roll il maestro Frick Antoni fa Yoko Ono e il DJ Ariele John Lennon proprio in quella celebre copertina. Le solite ingiustizie. Devo dirlo forte. Quindi non era vero che c'era una versione di Yellow Submarine, e non era vero che l'album faceva riferimento all'uso di stupefacenti. Bravi se avete azzeccato, male se avete sbagliato. E comunque, se per caso vi siete sbagliati, se avete erroneamente scelto la B o la C, la seconda o la terza ipotesi, restate in contatto, perché migliorerete di sicuro la vostra cultura rock. Happy Christmas, Coco. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a Happy Christmas, John. Happy Christmas. Oh no. Entriamo ufficialmente nell'ultima mezz'ora di Pane, Burro e Rock and Roll. Sono veramente orgoglioso di questa puntata 151 perché secondo me abbiamo fatto passi da gigante. Sono riuscito a mandare in onda una bambina che canta la canzone di Natale. Ho messo la canzone di Lennon di Natale e nessuno si è lamentato. Questo vuol dire che stiamo progredendo, ragazzi. Ciao Rosy! Ciao! Allora, avevo promesso nella puntata di oggi di sentire almeno i collaboratori stretti di Pane, Burro e Rock and Roll. Non potevamo mancare Rosy, la ragazza che ci impenna l'ascolto. Ma lo sai, Rosy? Che la, cioè, qui la gente mi chiede sempre: ma quella che fa i uomini nudi? Ma la conosci? Un po', dico sì. La conosco come voi. Che ne so, Rosy, secondo me hai un futuro nella comunicazione. Esageriamo. Mi viene da ridere. No, figuriamo. Senti, io ti devo portare il calendario, Rosy, perché è grazie a te e a Yuri che abbiamo parlato del calendario e che ci è venuta in mente la cosa di fare il calendario. Vi aspetto. Ci aspetti? Sì, c'è un po' di eco perché c'è la radio alta. Mannaggia, dovresti distruggerla quella radio. Non la sai la regola che si deve tenere spenta? Non pensavo chiamassi adesso. Tra l'altro ti ho mandato in... Per capire quanto siamo avanzati nella professionalità. Ormai Rosy la chiamo 30 secondi che sta finendo la canzone. Rosy, andiamo in diretta, ciao. E penso che stavo per mettermi a cantare È Natale, è Natale. Bene, sì, a Natale si può dare di più. Va bene, Rosy, auguroni. Un po' patetica sta cosa degli auguri. Era solo per salutarvi e per galvanizzarvi per gennaio. Anche con te cosa fa? Attenzione. Tanto in diretta è arrivato Andrea 147. Ciao Andrea, saluta Rosy. Oh, ciao Rosy. È una festa oggi qui. Però Rosy, lui si è presentato, c'ha una boccia di vino in mano, eh. Ma io ne ho due nel frigo se venite qua. Senti, per gennaio, come stavo dicendo agli altri, ognuno magari si ritaglia un nuovo compito. Secondo me quello degli uomini nudi io lo terrei, perché è vincente, squadra vincente non si cambia di solito. Magari si potrebbe ampliare un po'. Sì, aiuto. Tipo, in che senso? Ho trovato delle cose interessanti. Aia, in che senso? Rosy, puoi dirlo così quasi a Natale o ce lo dici a gennaio? Ma rimaniamo sempre nell'ambito gay friendly. Gay o... friendly, sì. Sì, no, io. Secondo me il gay friendly lo manterrei perché hai proprio la tua nicchia, capito? I miei amici. No, perché ho trovato cose molto interessanti, tipo la formula perfetta del lato B, queste ossiate qua da internet. Rosy, facciamo che ci sentiamo quando ci rinnovano il contratto e ne parliamo. Va benissimo. Ciao, intanto ciao. Buone feste. Anche a voi. Grazie mille. Ciao. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the wanderer.

torniamo allora, noi. Qui stiamo in diretta, qui non ci puoi stare. Tu devi stare di là con Spadino. Buono, buono, zitto. Ma allora zitto. Come cazzo è che è 5 giorni che entro qua dentro? Che guarda, è la stessa cosa che ci stavamo chiedendo io e Frick pochi secondi fa. Ma butta fuori Metal! Scusa? Butta fuori Metal! L'uomo della sicurezza. Sì. Esatto. No, ma noi non vogliamo ricorrere a questi metodi, Francesco. Noi ti vogliamo bene. Il temino, quello delle sì, due. Il temino sta a finire. Lo stai a finire. Sta a finire. Ma mancavano due o tre persone. Tra l'altro, papà torna o non torna? Papà, non si sa. La vigilia di Natale, te ne tornerai da papà o no? Vigile del la vigilia urbano, il giorno di Natale. Il giorno di Natale. E toccherebbe chiederlo alle autorità. Che senso? E lo cercano, sono venuti a me e mi hanno detto: cosa? Papà, dove sta? Allora, gentilmente, torniamo a parlare del temino sulle vacanze con calma. Però mi stai facendo venire il nervoso. Qual era allora, il titolo del tema? Le mie vacanze. Le mie vacanze, Metal! A Rock FM, a Rock tra FM. L'altro. Metal. Le stai a fare qui. Metal. Ti ha colpito qualcos'altro di Rock FM di questa settimana sì, nella nostra radio? Ti volevo chiedere una cosa. Chiedimela, ti prego. Allora, ieri mi hai detto Garavelli, il mio mito. Sì, che Marco mio Garavelli. Esatto, no? Marco Garavelli. Non c'ha non mi devo, non c'ha tatuaggio. Ma tu volevi tatuarti Tigers of Pantang sul petto. E invece Off Pantani. Tra l'altro non c'è sta la figa su sto posto. No, ecco. No, ma a me va bene. A me mi va bene, perché a me non mi frega niente. C'è Claudia, perché dici così? Ma Claudia è vecchia. No, vabbè, allora, per favore. Vabbè, ma io stavo parlando di un'altra cosa. Esatto, eravamo partiti da Garavelli, no allora, tatuaggi. No tatuaggi. No. Allora, ma perché coso Max De Rio c'ha sì. tutto il braccio tatuato col dragone che pare scoreggia no, a fiamme ma per, Metal no, no, le marmitte delle ruote di rock che un cazzo non si capisce un cazzo vaffanculo no, no, Francesco non si dicono queste parole in radio le parole e poi te la dico tutto vuoi farti un tatuaggio fatelo non me ne frega niente oh. No non può non no, può è un minorenne so. Dai non può, non può è un minorenne allora mi tatuo sulla faccia sei... la barba tua no dovresti pensare più che agli come fai a tatuarti la pancia? Sul petto fai... che è un'illusione ottica che pare che c'ha la pancia e Frick ridilizio. E la barba tua senti è gerontofilo no ma no, non dire queste cose non sai neanche cosa vuol dire come no? So che gli piacciono i vecchi Francesco come fai a sapere cosa vuol dire gerontofilo Frick che faccia fai? Ma ha detto Frick eccolo lì no ha detto Frick no, ha detto no, gerontofilo perché praticamente sì. io ieri gli stavo a rompere i coglioni sì, strano. Allora che è successo? Lui mi ha detto vieni ti insegno una parola nuova dal dizionario sì, che era? Allora mi ha insegnato obnubilare sì, solo che era troppo facile no? Perché la sapevi già esatto la sapevo già sì ma aveva insegnato a papà quando doveva fare la segretaria ok così, allora mi ha insegnato gerontofilo. Va bene. Ci ho messo un po' infatti, gerontofilo, gerontino. E poi ci alla fine Francetti, gerontofilo, prego, l'ho svegliato tutte le notte, gerontofilo, senti, gerontofilo. Qualche minuto fa eri di là in redazione, bello buono, sono zitto esaurito. Zitto. Però dovrà, perché morire. Non torni di là? Dove eri in redazione? Voglio no, morire. Perché eri là con i fogli. No, ma c'è farci. Un'altra cosa che ti devo dire, che volevo sì. chiedere. Ah. E sai, le sigarette. Ah, sì. Parla da poco le sigarette. Ma che non puoi fumare. Ma no, ma papà, papà, quando mi ha portato qui, mi ha detto. Tiè, fuma ste sigarette. Guarda un pacchetto di sigarette. L'altra e io volta ho provato a accendere. Ho provato a accendere. L'altra volta i sigari, adesso le sigarette. Sai che tra un po' mi sa che mi comincia a piacere Sise. E quindi? Perché ti gira la testa mi quando gira tiri. La testa, dopo mi devi buttare fuori allora, il fumo. Allora, che sigarette. Ci sta? Allora, sigarette. Che c'è sta sta puzza di fumo che mi innervosisce. Le sigarette. Cioè, sento puzza di fumo. Hai usato la cinese. Hai fatto qualcosa di. Ariel, Frick, vieni da questo. Non ha bruciato la redazione. No. Corri con me, Frick. Vieni, cos'è, vieni, vieni. Cos'è sto fumo? Sto puzzo? Cos'è sta roba? Sigaretta, provate a accendere. Raga, non ti dà nessuno, ma mi sa che qua sono tutti froci. Io tattira, tattira, tattira, tattira, tattira. Just Meduse Giant Center vi augura buoni acquisti e vi ricorda che nel reparto bambini troverete Babbo Natale in persona, pronto ad accogliere le richieste dei vostri bambini, accorrete numerosi. Babbo Natale, bisogna fare qualcosa! Ma certo, scoiattolina! Mamma mia, però, quanta urgenza! Sentiamo, piccolina, racconta a Babbo Natale che cosa dovremmo fare. Le tre persone più ricche al mondo detengono una fortuna maggiore al PIL dei 48 paesi più poveri. Le 15 persone più ricche al mondo detengono un patrimonio maggiore del PIL di tutta l'Africa subsahariana. Ah, ho capito, ti piace leggere il focus, cricetina. Prima che dessimo sfogo alla nostra sete di sviluppo la esportassimo all'estero, in Africa le popolazioni erano povere rispetto ai criteri occidentali, nel senso che disponevano di pochi beni manufatti, ma nessuno moriva di fame in tempi normali. Dopo 50 anni di sviluppo, la morte per fame è la norma. Oh, piccolina, quanto sei brava, ma mi metti tanta tristezza. Ma dimmi, non ti piacciono le Winx? Dai, parliamo dei Power Rangers. Hai visto l'ultima puntata? A parte che non li danno più in TV. E poi sto parlando di cose più grandi. Sto parlando di sviluppo, allarme sociale, globalizzazione, decolonizzazione, ritorno alle società vernacolari. Cosa credi? Che una nuova finanza faccia una nuova geografia? Sì, in effetti, sì, già, i pinguini che muoiono, i mari inquinati, la raccolta differenziata, i gas delle pecore australiane. Babbo Natale, ho cambiato idea. Sì, figliolina, dimmi. Per Natale vorrei che ti facessi una vacanza e che ti mettessi a guardare il mondo dall'alto, così per una volta chi ha il potere sa dove mettere le mani. Ma io, cara trucciolina, so già dove mettere le mani. I've got the power. Avanti un'altra? Selezioniamole queste bambine, selezioniamole. Ultimi minuti di diretta di Pane, Burro, Rock and Roll, puntata 151. Io, per quanto riguarda i collaboratori, devo chiedere perdono a Yuri, il nostro camionista che ci fa vedere le donne nude. Ti saluto da qua, Yuri, ma in scaletta siamo andati larghi e non ho fatto in tempo a sentirti. Il mitico fungo del vicolo inferno che voleva raccontarci come è andato a finire il presepe costruito sopra la sua testata, ce lo fai sapere a gennaio. Che altro mi mancava? Deborah ed Elena, le insegnanti rock, anche Vale. Saluto, vediamo un po', Alessandro, Gian da Genova, il nostro Giancarlo da Napoli, Carla la portinaia, saluti sicura. Tra l'altro faccio sapere a Carlo che mi ha chiamato un'altra signora che voleva sapere i numeri dati oggi. Sta andando come il pane la rubrica dei numeri dell'otto. Spero di non Sab, la nostra pulmista di Firenze. Sono coloro, i collaboratori fissi che non abbiamo potuto sentire stamattina, anche perché abbiamo un appuntamento importante con Simone da Brugherio. Ciao Simone! Ciao Achiele! In tanti mi scrivono via sms, ma sta storia della filodiffusione ce la siamo dimenticata? No, è qua, la tenevamo come ciliegina sulla torta. È allora, qua, è qua. Velocemente, Simone ha un negozio in centro a Brugherio. Sì. In questo centro di Brugherio il comune ha messo la filodiffusione con le canzoni natalizie. senza pensare che dando il centro di comando a Simone, questa cosa avrebbe potuto creare dei problemi, tipo che Simone avrebbe potuto mettere quello che voleva. Esatto, tipo Radio Rock FM. Tipo Rock FM, esatto. Il Marghingegno è già acceso? È già acceso, sei già su tutto il Brugherio. Siamo su Brugherio. Buongiorno Brugherio, chi vi parla è Ariel di Rock FM. Ascoltate il rock and roll che vi... Ma sentono, Simone? Sì, sì, che sentono. È colpa di Simone, il negoziante... Come si chiama il negozio? Strike. Il negozio Strike augura buone feste a tutti gli abitanti di Brugherio. Comprate con giudizio, ma soprattutto comprate le scarpe di Strike, che sono rock. Ok. Al messo comunale di Brugherio è colpa di Simone, che ci ha messo in filo di fusione. Ok, adesso mi uccideranno tutti, ma ti voglio bene lo stesso. Simone, io lancio Buon Natale per Rock, fagliela sentire tutta però, eh. Per forza. Ma io vi tengo su anche tutto il giorno, ma ci salutate. A questo punto sì, tienici su tutto il giorno, secondo me ti arrestano però, prima Vabbè, tanto fine. Mi tirate fuori voi, dai. Intanto Brugherio in filo di fusione, Buon Natale per Rock. Simone, ma facci sentire a telefono se si sente. Natale. Sì, che si sente. Cioè, corri fuori in piazza e fammelo sentire. Qui il Natale. Aspetta che metto fuori il telefono. Vai fuori. No. Dovrebbe esserci l'eco se va fuori. Eccolo lì. Sei un po'... Ciao Brugherio! Ha sentito. Ciao Simone, grazie! Quelle povere renne. Tu pensa con una moto rombante, un giubbotto ripelle. Però nero, snellisce. Ci vuole un'idea geniale, Natale. Ci serve qualcosa, facciamo un Natale. Tanto avere la voce del cantante degli AC/DC. Dai, dimmi di sì. Le sparme impazzirebbero con quella barba bianca. Ehi, dove credevi d'andare? Se tutti scrivono alla concorrenza, non ti puoi lamentare. Con quel capello, quel castano che fa decisamente più rock, ti straccia già in partenza e allora sai che si fa un tatuaggio rock. Un abete. Ci vuole un'idea geniale, Natale. Ci serve qualcosa, facciamo un Natale rock. Buon Natale, però un Natale rock. Che invecchiare come Mick Jagger degli Stones, sì, mi piacerebbe tantissimo, anzi tanterrimo. Magari anche avere l'agendina con i numeri delle groupies, se si potesse. Non fare quella faccia, dai. Lo sai, anche tu puoi essere un rocker se lo vuoi. Devi soltanto volerlo, Natale, ti serve qualcosa, facciamo. 9 e 40 secondi, buono, abbiamo iper sforato stamattina, puntata 151 che va in archivio, saluto di nuovo Brugherio all'ascolto, ma soprattutto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci hanno sentito in queste 151 puntate, speriamo di sentirci presto, chissà quando, lo scoprirete restando incollati alla frequenza di Rock FM. Vi ricordo che tra pochi minuti passerò il microfono a Marco Garavelli e inizieremo con le telefonate in diretta al numero di Rock FM che vi dico lentamente: 02 6 7 0 9 132. Da Pane, Burro e Rock and Roll, l'augurio è di buon Natale per Rock, da parte mia, da parte di Spadino, da parte della redazione, da parte di Isacco Rizzi e da parte di Roberto Fricantoni. Pane, burro e rock and roll. Si vede stasera a Firenze. La tua colazione rock. All'ippodromo per chi volesse il calendario. Pane, burro e rock and roll. E domani sera a Milano all'Alcatraz. È andata, ragazzi. Puntata 151 in archivio. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Buongiorno caro Marco Garavelli. Buongiorno. Come bravo. Buongiorno. C'è Spadino che è messo male stamattina. Non è l'unico, vedo. Allora, tra pochi iniziamo noi la diretta della vigilia finta. Potevi pensare in altro modo? No. Allora. Ma arriveranno a trovarci anche gli altri colleghi? Sì, ma con molta calma. Aia. Lo sai che la gente che si sveglia presto qui siamo solo io e te. Purtroppo. Allora, ti chiederei un piacere, se mi lasci qualche minuto che vado di là con Spadino a editare la puntata, che la metto su internet. Aggiudicato. Poi dopo attacchiamo con le dirette. Benissimo. Perché nello specifico c'è Davide che mi telefona da ieri mattina. Vuole essere il primo. No, lui è terrorizzato che ha paura di non prendere la linea. Davide, tranquillo. C'è tanto tempo. Secondo me ce la fai. Intanto segnatevi il numero 02 67 09 132. Perfetto. A tra poco. A tra poco. Ciao.